indossando un lercio maglione di lana bluastra che gli spuntava di sotto il pastrano dagli occhielli sdruciti, un personaggio del Manichino di Vimini, un delizioso romanzo di Anatole France appartenente al ciclo che lui volle intitolare alla storia contemporanea, beh, voleva mostrare il suo disprezzo verso l'intero genere umano. La scelta dell'abito, una scelta effettuata al livello più basso della qualità disponibile, insomma, era una forma per manifestare la propria radicata misantropia. È diverso l'animo di Pasternak quando in una poesia del 1928 dice: «Per me è indifferente quale foggia ai miei tempi sia destinata al taglio dei vestiti. Qualunque fatto vissuto spazzeranno come un sogno dopo avervi pigiato il poeta». Come dire che dell'abito se ne frega, ma non per alterigia o disprezzo verso il prossimo, ma per la profonda consapevolezza di quanto prima sia autonoma e libera la persona come tale e poi quella stessa persona in quanto poeta sia alla mercé delle vestiture altrui. Questo inizio di stagione invernale lo affronto di solito con una specie di palandrana bluastra. L'ho comprata nel 1979 con lo sconto, per la gentile intercessione di un'amica, e quando ne scorgo alcuni lievi e primi segni di usura mi dà l'occasione per lunghi discorsi irosi sul come al giorno d'oggi non facciano più le cose come una volta. Da tempo, insomma, debbo salvarla dalla furia modernista e biecamente consumistica di mia madre, che vorrebbe buttarla nella pattumiera senza neppure farle attraversare un felice interregno che so indosso a qualche povero che vi si riscalderebbe volentieri. Ha perso lo smalto di una volta, questo sì. Ha perso lo smalto di una volta, qua e là mostra i segni dell'usura, perde qualche filaccio, peraltro non indispensabile, è afflitta da qualche sbrego che comunque sullo scuro è meno appariscente che altrove, ma con i tempi che corrono me la tengo cara e stretta. Come tutte le cose molto usate, l'ha già detto anche Bertolt Brecht in una sua nota poesia, ha più valore. Nella protratta quotidianità del suo servizio si è accumulato e si va ancora accumulando una sua intrinseca virtù che sa crescere proporzionalmente alla sua storia. Giusto l'altro giorno, con il mio unico paio di jeans, che pur essendo lisi qua e là e involontariamente lisi, non avranno più però di un paio d'anni, giusto l'altro giorno ci concedevamo, io e la mia palandrana, la nostra lunga e assorta passeggiata quotidiana. Riflettevo su quell'omilia quaresimale di San Gerolamo in cui lui invita a non tagliare i panni addosso ai sacerdoti e mi interrogavo sulla misura di metaforicità della sua sagace espressione quando mi accorsi che il semaforo adibito al buon governo dell'incrocio che mi accingevo ad attraversare stava per diventare rosso. Mi fermai e con la coda dell'occhio mi avvidi che si fermò pure dal suo lavoro di solerte lavavetri in mezzo alla strada un giovane alla mia destra. Per le automobili in coda ciò che era rosso per me era ovviamente verde per loro, e quindi ben faceva il giovane lavavetri perspicace a porsi in salvo, sempre come vaga figura nella periferia dello sguardo, anche per non incoraggiarlo ad alleggerirmi dell'unica banconota che possedevo in tasca, mi accorsi che nella pausa mi si stava avvicinando. Stavo provando allora la mossa dissuasoria del riflettere con maggior preoccupazione sull'esortazione di San Gerolamo quando mi sentii toccare confidenzialmente al gomito destro. Mi girai allora sorridente e benevolo alla sua volta e ne ebbi in risposta un altro franco sorriso, più una frase interrogativa, in italiano smozzicato ma chiarissima: «Tu da quanto sei qui?» Gli diedi un'occhiata da capo a piedi e poi mi ripassai mentalmente la mia figura. Eravamo lì. Con le scarpe, meglio lui. Gli dissi: ti parrà strano, ma sono qui da tutta una vita. Il semaforo intanto era ridiventato verde per me e rosso per loro. Era venuto il momento di lasciarci, non senza esserci scambiati un conclusivo sorriso di simpatia. Mentre me ne andavo, lui mi ha gridato: io albanese! E io mi sono girato e gli ho detto: io non ancora! Poi ho proseguito. Le lenticchie di montagna erano il mio obiettivo. Facevo qualche chilometro in più, ma al posto di pagarle 6.000 lire al chilo dal negozio esoso, le andavo a pagare 4.500 da un negozio un po' meno esoso. Avevo giusto in tasca 5.000 lire e, strada facendo, ancora sotto il benefico influsso dell'incontro al semaforo, mi son detto: di lenticchie di montagna me ne compro 3 etti, risparmio la bellezza di 450 lire. Quando torno rifaccio la stessa strada, il risparmio glielo do a lui e magari così gli consiglio anche il negozio giusto. Mai sperare che la beneficenza trovi neppure per un attimo un accordo con la ragione. Qualsiasi forma d'amore non vuole calcoli. Sono tornato al semaforo una mezz'oretta dopo con il mio pacchettino di lenticchie e pronte in tasca le monetine per il gentile albanese. Per quanto abbia atteso e guardato di qua e di là, non c'era più.